Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Pietro Lacorte in regia e voi al telefono 800 24 00 24, numero verde o ai messaggi vostri sempre, 349 238 6666. Dunque, a quanto pare, ultime notizie, Ibrahimovic domani sarà a Parigi. Visite mediche, presentazione, io credo, da superstar assoluta, 12 milioni più bonus a Zlatan e mi sembra una discreta quantità di quattrini. Ma adesso però andiamo in mare. Andiamo in mare perché dobbiamo andare sul veliero fantasma di Pierluigi Pardo. Buonasera, buongiorno, come va? Per te meglio. Mi sento improvvisamente malissimo, vedi, questi qui sono i misteri della telecomunicazione. Dove sei? Senti? Pierluigi, dove sei? So che sei in mare ad Alicante. Sì, ma adesso non vorrei... Da velista, cioè tre giorni all'anno, ecco. E oggi, domani e dopodomani, perché fanno il team a Bari, quindi insomma, però sono in questo momento, sì, infatti spero che regga la linea, la vedo abbastanza complicata. Sì, la vedo un po' complicata anch'io e passo subito al dunque. Allora, via Thiago Silva, via Ibrahimovic, Cassano cosa fa, visto che tu lo conosci molto bene? Ma allora, io penso che l'ho intuita, no? Io credo che insomma c'è stata quella famosa conferenza stampa durante l'Europeo che era passata alla storia non soltanto per i turbamenti rossoneri ma anche per questioni diciamo più sociali, sappiamo bene a che cosa mi riferisco. È chiaro che è un duro colpo, ma credo sia un duro colpo per tutti i tifosi del Milan, insomma, non soltanto per i giocatori stessi. In quella circostanza lì io credo che Cassano forse si è lasciato prendere da voglia di essere molto diretto e da un certo senso così dello spettacolo nella conferenza stampa, forse aveva in qualche modo anche esagerato, perché poi in un'intervista successiva aveva già chiarito, insomma, che non aveva nessuna intenzione di lasciare il Milan e che semplicemente insomma il suo era così un vediamo, perché non si sa mai nel calcio di oggi, e credo che le vicende di queste ore in qualche modo lo confermino, perché insomma fino a pochi giorni fa in pochi avrebbero immaginato che Ibra e Thiago Silva avrebbero lasciato così rapidamente il Milan. C'è un duro colpo soprattutto in virtù del rapporto eccezionale che esiste tecnico prima ancora che umano fra Ibrahimovic e Cassano, perché sicuramente insomma, questo non è un segreto, Ibrahimovic amava moltissimo giocare con Cassano, quindi, e credo fosse ampiamente ricambiato, quindi prevista certamente per lui non è una bella notizia. No, certamente non è una bella notizia, ma pensi che resterà al Milan? Ma io penso di sì, adesso veramente, a parte che sono detto da qualche giorno, no, ma penso che quel discorso lì in estate che in qualche modo aveva fatto preoccupare i tifosi fosse veramente una sorta di punto interrogativo in assoluto che in questo momento qualsiasi giocatore ha, soprattutto quando poi si rende conto che il clima attorno a lui è un clima, non voglio dire di mobilitazione, ma insomma comunque di saving, per dirla all'inglese, no? Cioè di grande risparmio. Sì. Io credo proprio di sì, io credo che ci sia una gratitudine che Cassano ha nei confronti di una società che lo scorso anno di fronte a quel problema l'ha curato in maniera più adatta, più tempestiva. Insomma lui è tornato spesso sul ringraziamento al medico, ma anche proprio al tipo di assistenza super che ha avuto da parte della società in quelle giornate più complicate, quindi io non credo che ci sia nessuna voglia di rottura. Poi è ovvio che insomma, se Ibra e Thiago possono partire, può partire chiunque, ma questo vale secondo me non soltanto per il Milan, vale in questo momento per il calcio italiano che si trova in una difficoltà evidente di fronte a certe offerte che arrivano dall'estero, essenzialmente la presenza della società. Certo. Ecco, e allora io lì dal galeone dei pirati dove ti trovi voglio chiederti un'ultima cosa, che campionato racconterai per Mediaset, che campionato racconteremo, vista così sembra una lega minore? Ma guarda, non sempre i soldi non sono la felicità, è un discorso che può sembrare banale, ma in realtà la bellezza almeno per me di un campionato sta nel suo equilibrio, quindi poi è chiaro che ci fa piacere avere grandi campioni e che i segnali che stanno arrivando dal punto di vista economico non sono segnali positivi, anche se poi ci si potrebbe anche chiedere filosoficamente se è giusto o non è giusto dar via un giocatore di fronte a certe offerte o pagare certi ingaggi, perché si parla tanto di fair play, si parla tanto di economica generale complessiva del paese, poi insomma di fronte a dei risparmi è chiaro che c'è il dolore da un lato perché perdi dei grandi giocatori, ma dall'altro ci deve essere anche la fierezza perché evidentemente soldi. Io credo che sia comunque un campionato equilibrato. La Juve ha il vantaggio che può concentrarsi su un paio di operazioni, se riesce a far bene quelle, ha un'intelaiatura che secondo me la mette un passo avanti. È stato un po' come l'Inter di qualche anno fa. Aveva budget superiore alle altre, soprattutto aveva meno problemi e meno situazioni da dover correggere. Quindi in questo momento ha il vantaggio che se non sbaglia rimane avanti a tutto. Certo, buona navigazione. Grazie, è stata dura, complessa con la telefonia spagnola. È stata dura, complessa, ma ce l'abbiamo fatta. Ti lasciamo al galeone dei pirati, caro Pierluigi. Sì, sabato sera, canale 5, c'è il team, anzi, fammelo annunciare. Quindi, sì. Giovedì sera, dai. Allora, presto, magari con linee diverse. Grazie, 800 24 00 24 il numero verde, c'è qualcuno cui manca il basket, cosa ne pensa la nuova Cantù? Ne parleremo perché il basket non mancherà mai da questi schermi, soprattutto da questi microfoni della nuova Cantù, parleremo quando avremo capito come sarà, ma insomma credo sarà competitiva come sempre. C'è Lori da Milano che scrive: l'intervista di Gattuso sulla Gazzetta di oggi bisogna farla leggere alle nuove leve calcistiche per l'umiltà che contiene Gattuso e la sua nuova vita al Sion. Più che altro io ci ho letto una dura accusa, nemmeno troppo velata, ad Allegri, che da Gattuso viene considerato un po' il responsabile dell'epurazione che sta avvenendo al Milan. Si diceva anche, ma lo stesso Allegri era uscito un po' di sottecchio un'agenzia qualche tempo fa di questo incontro con Galliani e Berlusconi in cui si sarebbe detto che insomma Ibrahimovic non era la persona adatta per guidare il nuovo Milan, poi tutto smentito, ovviamente tutto confermato dagli eventi di mercato. Io una mia idea su come sarà il Milan ce l'ho. Ovviamente bizzarra, ovviamente non confermata da alcuna fonte, ovviamente una sensazione che vi butto lì, poi ne parliamo se volete. 800 24 00 24 il numero verde. Sempre a proposito di Cassano, tra l'altro oggi leggevo delle dichiarazioni di Cecchi Paone, non vorrei tanto tornare su questo argomento, però sono insomma notizia mi sembra tanto, sono dichiarazioni di oggi. Cecchi Paone definisce Cassano cavernicolo per quelle affermazioni che fece nel corso degli europei a proposito dei gay, ha rifiutato un incontro con chiarificatore con Cecchi Paone, tant'è, la lasciamo lì. Allora la mia idea sul Milan che verrà, io continuo a pensare che ad un ritorno di Kakà, prestito con diritto di riscatto, pochi quattrini da versare se non al giocatore, che io credo però sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare a casa sua e pur di tornare a giocare, pur di tornare ad essere protagonista. E chissà mai, Pazzini che ha rotto con l'Inter e che potrebbe andare sempre per pochi soldi a ricomporre la coppia con Cassano, come la vedete voi? 800 24 00 24, sono fantasie d'estate naturalmente, ma qualche fondamento ci può essere. Marcello da Milano. Caro Genta, la vedo malissimo questa sua soluzione, ma non mi riguarderà più. Io sono un tifoso del Milan. Perché ha cambiato squadra? Ho deciso di abbandonare questo mio tifo per la delusione. Ah, cambia squadra? Lei sa che non si cambia squadra. Però al Real Madrid, Genta. Tiene Real Madrid. Cioè, le piace vincere facile. Nah, Genta, forse ha ragione, però non mi piace essere preso in giro. E ripeto, ci sta la vendita, bastava dirlo. Ma non questo giochetto che ha fatto Galliani. Io fino a quando c'è Galliani francamente preferisco evitare di fare questa squadra. Vorrei dare una sua opinione. Ma comunque che Marcello, ma cosa c'entra Galliani? Galliani fa il suo mestiere, no? Beh, non deve però dire diamo la maglia al 10 a Ibrahimovic. Ma poi gli dicono allora lo mandano a trattare Pato, lui vende Pato in inverno e lei se lo ricorderà benissimo, poi fa questa trattativa molto difficile, Pato, Tevez, incastra tutto, gli smontano il castello, arriva la telefonata, castello che di carte che vola per aria, torna indietro, sappiamo che non c'è un grande rapporto tra Galliani e gli eredi di Berlusconi, soprattutto la erede di Berlusconi che lei ben conosce, E poi tratta Thiago Silva, arriva il Niet sempre dallo stesso telefono, torna indietro, Thiago Silva firma il contratto e poi viene venduto. Quindi vede anche lei che Galliani è un esecutore materiale, mi pare. Mettiamola così. Mettiamola così, grosso modo, perché è così, caro Marcello. È un esecutore materiale che magari sarà anche rotto le scatole di tessere trame di mercato che poi gli vengono stracciate con la telefonata che arriva sempre dallo stesso telefono. Grazie, allora, Marcello. Sarebbe più dignitoso rassegnare le dimissioni, se è così. No, sarebbe più dignitoso raccontare quali sono le linee di costruzione del nuovo Milan, cosa che non, al momento non si intuisce, perché dico quello che ho detto prima, anche se mi danno del, cosa che non è vera, peraltro, dell'antimilanista, della, non mi ricordo, del Pluto giudaico massonico antimilanista, una cosa così mi era arrivato un SMS ieri. Non lo sono, e comunque io credo che tutti i tifosi del Milan sarebbero disposti a veder crescere una squadra nuova, magari con giocatori del vivaio, ad aspettare, a veder fiorire un progetto, piuttosto che ad essere lì ad aspettare un giocatore in saldo che potrebbe arrivare, con poi Galliani stesso che viene a dire siamo il club più titolato al mondo e lotteremo per la Champions League, ben sapendo che non è vero. Sport Mediaset danno cacà verso il solito Paris Saint-Germain che vuole fare il pieno, vuole prendere tutti, compro tutti, non credo che possa essere funzionale alla squadra di Ancelotti, a meno di non voler fare l'album delle figurine, vista la squadra che Ancelotti sta costruendo, però anche lì stiamo alla finestra. Poi c'è chi scrive anche, il nostro amico Alessandro Grandesso, che abbiamo sentito ieri, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Parigi, che sta seguendo ora per ora le vicende di questo incandescente mercato parigino, scrive su Twitter che Verratti arriva al Parc per la firma del contratto quinquennale, quindi 5 anni di contratto per il talentino ex Pescara. Franco, proprio dalla provincia di Pescara, ci dirà qualcosa in più su Verratti? Sì. Niente, sorgente, io sono un grande tifoso del Pescara fino all'anno scorso, quindi con il trio, diciamo, Verratti, Insigne, Immobile, quindi era un gran Pescara. Ciao, adesso tutti e tre sono andati via, non c'è rimpiazzo, quindi anche noi tifosi dobbiamo pensare che andare allo stadio l'anno che viene è come assistere a un suicidio di un Pescara già destinato alla retrocessione. Mi sembra presto, perché è chiaro che quella squadra è stata smontata, a cominciare dall'allenatore, i talentini che c'erano sono stati monetizzati, mi sembra un po' presto per dire che sarà la cronaca di una morte annunciata al campionato del Pescara. Non dobbiamo dimenticare che il Pescara ha fatto quelle cose con quei giocatori in Serie B, lo dicevo anche ieri. Verratti, io mi auguro, tutti insieme ci auguriamo che possa crescere al Paris Saint-Germain, acquisire esperienza internazionale e diventare davvero quel centrocampista formidabile che immaginiamo, che al momento ancora immaginiamo in chiave azzurra. Non dimentichiamo però che ha fatto quello che ha fatto in questa stagione in Serie B, quindi è atteso a varie riprove, io direi. 800 24 00 24 è il numero verde. Oggi parleremo naturalmente di Olimpiadi, anzi inaugureremo una rubrichetta, visto che ci avviciniamo, meno 10 a Londra, anche se continuano a ripeterci che poi in realtà sono meno di 10 giorni, perché dal 25 ci sono i preliminari del torneo di calcio femminile, eccetera eccetera. Insomma, venerdì l'altro, il 27, si aprono le Olimpiadi, che ovviamente seguiremo ogni giorno da questi microfoni. Alberto Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, da tifoso interista, io sì, definisco il mercato della mia squadra completamente folle. E mi spiego. Allora, se si decide che ci vuole del fair play, che dobbiamo risparmiare, mi sta bene. Dopo 20 anni di brutte figure, mi sono visto un 2010 come mi sono visto, sì, mi va bene tutto. Mm-hmm. Ma allora non spendiamo tutti i milioni per Silvestre e puntiamo su Ranocchia, non andiamo a spendere altri soldi e teniamo dei giocatori in casa, perché qui mi pare un mercato completamente. Beh, però Alberto, io credo che Silvestre sia il sostituto naturale di Lucio. Samuel ha i guai fisici che ha, è un giocatore straordinario, però ha i guai fisici che lei conosce, ha l'età che lei conosce. Dunque io credo che Ranocchia possa stare in questo quadro, giocatore che a me piace molto, reduce da una stagione pessima, come lei sa meglio di me, però credo che possa essere funzionale al futuro dell'Inter anche per ragioni anagrafiche. O in Ranocchia non ci crediamo più? No, il concetto è che secondo me non è che possiamo rottamare giocatori perché è una stagione... Esatto, su questo, questo condivido, no? Come? Pazzini lo tengo. E Pazzini ha rotto con l'Inter in maniera dichiarata, quindi mi sembra che ci siano pochi margini per ricucire questo discorso. Cioè, perché voglio dire, svendere Pazzini, comprare Destro che era già nostro, che è tipico da Inter, sì, questo intendiamo. Sì. E allora, non ho capito, cioè, se devo risparmiare tengo Pazzini e faccio salire Longo. Qui voglio essere un filino feroce adesso. Sì. A fare calciomercato con José Mourinho che mi dice chi comprare e chi vendere, sì, e Moratti che mi dà degli assegni in bianco, mi creda, sono capaci tutti, salvo quindi, poi sbagliare anche in quel caso, no? Ricorderà, abbiamo comprato il Pomata a suo tempo. Abbiamo comprato il Pomata che poi vabbè, anche lui magari era da tenere ancora un altro, però voglio dire, dal mio punto di vista, glielo dico senza la prima mossa, no, di calciomercato, Alberto, io credo che il problema sia comune, no, a Milano, sia quello del Milan e quello dell'Inter. Credo che la visione dei tifosi del Milan e dell'Inter non sia poi in questo momento così diversa. Cioè, in entrambi i casi c'è la pazienza e anche la voglia di aspettare, di vedere qualcosa di nuovo e di vedere un progetto crescere. Soltanto che non si capisce quale possa essere questo progetto. Sì, in no? Tutto questo le dico con grande sincerità, secondo me la prima mossa di calcio mercato dell'Inter dovrebbe essere mandare a giocare alla PlayStation Branca, perché mi creda, non mi sembra esattamente il Ronaldo, sì, dei direttori sportivi. Ma mi sembra che in generale ci sia un po' di confusione all'Inter, ma questa è una cosa che dal momento in cui è andato via José Mourinho e con lui le Reali, mi sembra una cosa all'ordine del giorno, no? La storia della stagione passata lo dimostra, e anche queste incertezze sull'allenatore poi confermato Stramaccioni, questa conferma di Stramaccioni io voglio valutarla nel tempo, perché anche lei ricorderà che Stramaccioni veniva confermato il lunedì insomma in funzione del risultato della domenica. Adesso gli si dà in mano una squadra da ricostruire per il futuro, voglio vedere a che punto si arriva. Mi sembra che ci siano idee abbastanza confuse, Moratti continua a dire che sarà una squadra molto competitiva, ma non mi pare nemmeno ci siano i quattrini a questo punto per intervenire in maniera pesante sul mercato e per andare a prendere giocatori, competitiva intendo a livello europeo, andare a prendere giocatori che consentano all'Inter di correre non solo sul fronte dello scudetto, ma anche sul fronte delle coppe europee, che poi non sarà la Champions League per i nerazzurri. 800 24 00 24, numero verde. Io prima della borsa comincio a regalarvi quest'altra rubrichetta che ci terrà compagnia in attesa delle Olimpiadi, perché ci sono molte cose che non sapete sulle Olimpiadi, ci sono molte cose da scoprire, ci sono molte cose che non osate forse nemmeno chiedere. E allora ve le raccontiamo noi, Olimpiadi varie ed eventuali. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. Qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. Forza, non nascondetevi dietro al televisore. Quante volte guardando le Olimpiadi vi siete chiesti: ma che diavolo è il dressage? La sfilata inaugurale? No. Un balletto? Neanche. Il dressage, con cui apriamo una serie di appuntamenti con gli sport olimpici, vari ed eventuali, è una delle tre discipline dell'equitazione, assieme al salto a ostacoli e il concorso completo. Ma noi, se vi fidate, vogliamo illuminarvi sul dressage, dal francese addestramento, in quanto arte equestre per eccellenza. Prendiamo il regolamento nazionale e leggiamo. Il dressage ha per scopo lo sviluppo armonioso dell'organismo e dei mezzi del cavallo. In pratica aspira alla fusione dei movimenti del cavaliere con quelli dell'animale, manco si fosse alla ricerca di un centauro del nuovo millennio. Lo scopo è quello di eseguire delle figure padroneggiando trotto, galoppo, passo e mezzo passo all'interno di un rettangolo di 20 metri per 60, delimitato da una staccionata, su cui sono posizionate le lettere che indicano l'inizio e la fine delle varie figure. Una roba da cervelloni che spopola in Germania e Olanda, dove evidentemente hanno i cavalli più leggiadri, armoniosi e regolari, così come richiesti dai giudici. Al Greenwich Park di Londra andranno in scena sia la prova a squadre che quella individuale, per lo sport olimpico da pari opportunità, l'unico infatti in cui uomini e donne gareggiano insieme su un piano paritetico. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di sasso scritto, frazione di Carbonia. E qui impiegati come muli da soma. Olimpiadi varie ed eventuali, cosa ci racconterà nei prossimi giorni Franco Piantarida? Intanto abbiamo capito tutto sul dressage, ma ci sono molte, molte cose che non sapete e non osate nemmeno chiedere, dite la verità. C'è chi scrive: mi sembra un po' presto per fare funerale del Milan, manca un mese e mezzo alla fine del calciomercato, così come è presto per fare funerale a Pescara. Infatti questa non è, è una trasmissione di sport in cui vogliamo chiacchierare insieme e divertirci, non fare funerali ad alcuno. Il Milan così com'è è chiaro che senza Ibra e Thiago non è competitivo nemmeno per lo scudetto, vista la squadra che ha e sta allestendo la Juventus. Mercato della Juventus mi sembra perfetto, a parte Lucio che debutterà stasera in amichevole in maglia bianconera, che è un giocatore che io continuo a considerare estremamente sopravvalutato. Tutti gli altri, da Isla, da Samoa eccetera, sono giocatori perfetti e funzionali al progetto. Adesso si continua a discutere chissà per quanto tempo si farà ancora sul top player Jovetic e Van Persie. Staremo a vedere, serve il giocatore che è in grado di risolvere quelle partite da 0-0 alla Juventus, ma credo arriverà anche quello. Dubbi su Lucio, dai un'occhiata al palmarès. Mai rotto, grande acquisto per la Juve, sarà titolare fisso. Sì, sarà titolare fisso, non do un'occhiata al palmarès. Lucio ha vinto molto, lo sappiamo, giocando comunque sempre ad alto livello tra Bayern Monaco, Inter del triplete eccetera eccetera, però è un giocatore che a me non convince, non ha mai convinto. Secondo me il vero fenomeno della difesa dell'Inter, che ha fatto grande Lucio quando è riuscito a stare in campo, era ed è Walter Samuel. Poi è lì da vedere, sono lì da vedere le prestazioni di Lucio quando Samuel era infortunato, come spesso è stato infortunato nell'ultima stagione. 800240024 comunque per parlare con noi, siamo qui. C'è qualche ascoltatore, anzi un ascoltatore tra i nostri più lungimiranti, che suggerisce una rubrica che io vi giro, così insomma la possiamo fare insieme al telefono quando volete, oggi, nei prossimi giorni eccetera. L'ascoltatore suggerisce questa rubrica: quale sport vorreste vedere rappresentato alle Olimpiadi? Bella domanda che giro a voi. Ditemelo voi quale sport vorreste vedere rappresentato alle Olimpiadi, di quelli ovviamente che ne restano esclusi. 800240024 numero verde. A proposito, io saluto un olimpionico, Diego Confalonieri, bronzo a Pechino a squadre nella spada. Ciao Diego. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Senti, con te volevo parlare... Dimmi. No, perché devo subito intervenire per questa diatriba su Lucio. Sì, io sono juventino e sono talmente d'accordo con la scelta della società, perché secondo me può diventare un top player a costo zero. Dici? Quindi credo che sì, credo che la Juve abbia fatto un buon acquisto e abbia, tra virgolette, risparmiato dei soldi per poter investire poi sul top player, ammesso che poi arrivi questo top player. Senti cosa dice, senti cosa ha detto Diego, sentiamo insieme cosa ha detto Conte su sto top player. Il top player deve essere un top player non a livello economico, deve essere un top player a livello calcistico, nel senso che, faccio un esempio, il Vidal della situazione l'anno scorso è stato pagato come un bus player, no? E invece in campo si è dimostrato un top player. Ecco, io mi auguro che, se non dovesse, preferisco, ecco, che arrivi un top player da campo piuttosto che un top player a livello economico. Tanto su Vidal non era convintissimo Conte l'anno scorso quando arrivò, non so se ti ricordi, si è convinto strada facendo per sua fortuna. Sì, non era convinto, però insomma dichiarazioni di metà anno di Conte, quando ha chiesto Vidal, ha risposto: quando ho capito quanto era forte Vidal, gli ho costruito il centrocampo intorno e ho fatto in modo che potesse dare il giusto equilibrio al centrocampo, giocando spesso con all'inizio con i tre centrocampisti centrali, quindi lui, Pirlo e Marchisio, e poi giocando col 3-5-2 che gli dava la possibilità di inserirsi con Marchisio in zona gol. Quindi credo che Vidal sia uno di quei giocatori che abbiamo trovato fondamentale. Vidal sì, davvero fondamentale. Soprattutto nella prima parte del campionato lui e Marchisio hanno costruito le fortune della Juventus anche in chiave realizzativa. Diego, poi parliamo anche d'altro naturalmente, ma tu chi vorresti come sto benedetto top player? Jovetic, Van Persie, qualcun altro? Allora, secondo me l'attaccante ideale per la Juventus, per il gioco che fa, è Cavani. Bravissimo. Che è molto difficile, molto ovviamente da prendere, perché il Napoli già Pavezzi, che poi non vuole privarsi ma la top player, per cui credo che quello sia il giocatore ideale per la Juventus, anche perché la Juventus, avendo già ripreso Giovinco come alternativa a Vucinic e avendo comunque ancora Pepe, credo che poi l'attaccante che faccia gol ma che faccia anche movimento. Il movimento è un po' quello che ha fatto i problemi maggiori a Matri è un attaccante d'area di rigore, no? Sì, e quindi è chiaro io questa no, invece l'ho vista molto spesso a Torino, perché sono sempre ospite della società che spesso ho visto 10 partite e sinceramente negli ultimi 4 mesi era veramente un pesce fuor d'acqua, perché si vedeva che non era in grado di sostenere il peso dell'attacco. Certo. No, ma la Juventus, l'abbiamo detto molte volte, serve il giocatore in grado che abbia il colpo risolutivo, no? Tu hai ragione quando dici Cavani, la mia stessa idea. Un'altra idea molto più originale e bizzarra potrebbe essere quella di Balotelli, ma non stiamo ad aprire troppe piste e troppi discorsi. Io ho intanto già ricevuto 1 miliardo di messaggi su quale sport non presente attualmente si vorrebbe vedere alle Olimpiadi. Si va dallo squash al bowling, all'agility dog, al cricket e al rugby, al parapendio, al pattinaggio a rotelle, alla lap dance. Fai un po' tu, Diego Confalonieri. Che sport vorresti vedere alle Olimpiadi tra quelli non rappresentati? Se c'è nessuno, spiego la mia risposta perché è provocatoria. Perché io non partecipo quest'anno alle Olimpiadi, anche perché hanno aggiunto gli sport e hanno di conseguenza tolto medaglie ad altri sport che erano già presenti, no? Quindi credo che sia giusto che si possano aumentare a dismisura il numero di sport, ma non si devono toccare le medaglie degli sport che già c'erano. Vi faccio questo esempio della scherma, perché per esempio quest'anno alle Olimpiadi non parteciperà la spada a squadre e l'esciavolo a squadre. 4 anni fa hanno partecipato il fioretto maschile a squadre e la spada femminile a squadre, per cui credo che questo turnover al quale la scherma purtroppo è dovuta incappare ha portato a non poter partecipare alle gare dove si potevano vincere medaglie, no? Quindi diciamo che questo è un po' il risvolto della medaglia di avere altri sport inseriti nel olimpico. Questi sport credo che nel 2016 si potrà vedere il rugby, penso anche il golf, che siano uno degli sport che vanno inseriti. È chiaro che insomma anche il fatto che vengano inseriti sport per esempio come il bowling, come il cricket. Mi sembra eccessivo, sono d'accordo, perché si possono inserire altri sport, però non avere la spada a squadre, a parte gli interessi, se sei parte in causa, però mi sembra qualcosa di strano, di curioso e di sbagliato. Diego, dobbiamo richiamarti perché la linea è disturbata e io voglio parlare con te di un paio di altre cose che accadranno che non accadranno a Londra. Lo facciamo immediatamente. Tanto aspetto anche voi, 800 24 00 24, il numero verde. Vi faccio sentire un'altra voce di Conte di ieri. Ma dove andrà Alessandro Del Piero? Leggevo oggi sui giornali di un interessamento del Watford. Ci possono essere gli Stati Uniti, ci può essere il Giappone, ancora non si sa. Ma a Conte manca già Del Piero, chissà se è vero. Volevo non ricordare, perché Ale è presente, quindi cioè, è sempre presente, sarà sempre presente, perché Ale Del Piero rappresenterà comunque la storia della Juventus. È molto strano dopo tanti anni che non ci sia. Bisogna sempre andare avanti nelle cose, nella vita, e io a lui auguro le migliori fortune, perché se le merita per quello che ha fatto e per quello che sicuramente farà nel presente e farà nel futuro. C'è chi alle Olimpiadi vorrebbe il Nordic Walking, chi il Kendo, chi... vabbè, biglierà l'IPA, questo mi sembra chiaramente uno scherzo. Diego, sei tornato? Eccomi. No, io volevo chiederti di questo, di ciò che non accadrà alle Olimpiadi, e cioè di un villaggio olimpico blindato, niente Twitter, niente Facebook per gli atleti, tutto oscurato. Sembra un villaggio olimpico di regime nel 2012. No, non sembra, un po' lo è. Sì, lo è. È incredibile come lo possa essere nel 2012 in un paese evoluto come l'Inghilterra, ma non dipende dall'Inghilterra, insomma dipende poi dal CIO. Io prima ho letto alcuni giornali che parlavano di questo, di questa fantomatica multa da 100.000 euro che dovrebbe pagare un atleta che ha firmato la convenzione, no, col CONI, per questo discorso del utilizzare Twitter o Facebook, può farlo solo a livello di diario, parlando sempre in prima persona. Ma io credo che per un atleta sia importante condividere con chi è a casa, con i propri follower, con i propri fan, quello che è un'esperienza olimpica che io ho vissuto e che avrei voluto volentieri condividere anche su Twitter, perché no, anche su Facebook, con i miei amici, i miei conoscenti, quindi con le persone che erano a casa e che non potevano venire a Pechino. Sì. Quindi credo che sia, che non sia una grande uscita, una grande diciamo decisione. No, non penso nemmeno io, perché nel 2012 comunque anche le Olimpiadi con tutti i loro cerimoniali, con tutte le loro solennità, devono stare al passo con i tempi. Non esiste che ci sia un luogo in cui non si può comunicare con l'esterno attraverso questi nuovi media che usiamo tutti i giorni, no, Diego? Ci saranno anche altri passatempi al villaggio olimpico. Leggevo, magari l'hai letto anche tu, l'intervista di Hop Solo, stella portiere, stella del calcio, del football, non football, del calcio americano, squadra femminile di calcio americano, che dice al villaggio olimpico si fa sesso e di brutto, ci sono feste, insomma, non ci si annoia anche se non c'è Facebook e Twitter. Ma guarda, io te lo dico per esperienza personale di Pechino, non era proprio così, perché comunque gli atleti che fanno le Olimpiadi sono atleti professionisti o comunque pseudo professionisti e hanno fatto sacrifici per 4 anni, e quindi quel momento lo vivono solo in funzione della gara che fanno. È chiaro che dopo le gare, se capita di rimanere 1 o 2 giorni in più al villaggio, ci scateni in feste per chi ha vinto e diciamo in feste per dimenticare le delusioni sportive, questo sicuramente, però non è neanche giusto far passare l'immagine di un villaggio olimpico dove tutti fanno sesso, dove tutti vanno lì per divertirsi. È sicuramente bellissimo. Magari sono alcuni, magari Hop Solo sì. Magari lei sì, non, qualcuno sicuramente sì, è giusto che lo faccia, insomma, però è chiaro che in quel momento per tutti, vi assicuro, l'obiettivo è prendere medaglie e vincere le proprie gare, quindi sì, questo è sicuro. Sì, sì, no, ma io so benissimo che è così, eventualmente la festa si fa dopo, no? Come Aldo Montano insegna. Ma non solo lui, tutti facciamo feste, chi più chi meno, le abbiamo fatte tutte, le faranno comunque tutte. Insomma, Aldo è un po' sicuramente il personaggio più fashion, più sì, conosciuto, più chiacchierato nella scherma per le sue fidanzate, per le sue ospitate a reality, però sì, vi assicuro, ma anche per una naturale abilità con i media. Io ricordo ad Atene, quando ancora non era Aldo Montano che usciva con l'Arcuri eccetera eccetera, era uno schermitore, bel ragazzo, e che riusciva ad inventarsi cose dopo aver vinto le medaglie, cose del tipo le patate fritte non sono mai troppe, no? Che sai bene che è uno che buca, Aldo Montano sicuramente. Sì, ha questa grandissima dote, oltre che essere veramente un campione nella sua disciplina. Senti, per chiudere, la tua Juventus si prepara una lunga egemonia in Italia, mi pare di capire. Credo che sia l'unica egemonia che può, diciamo, perseverare, perché può arrivare, perché all'estero credo che le altre nazioni abbiano squadre più pronte, che abbiano comunque delle rose più più adatte a vincere la Champions League, anche se poi quest'anno, come ha dimostrato il Chelsea, che non mi sembrava una squadra, una rosa particolarmente superiore a Real Madrid, Barcellona o altre squadre. Credo che il campionato italiano tolga molte energie fisiche e mentali, sì, alle squadre che poi partecipano rispetto alle altre, agli altri campionati, no? Perché chiaramente in Spagna, quando tu finisci primo e secondo e hai 40 punti sulla terza, no, qualcosa... non c'è dubbio, il campionato spagnolo, il campionato spagnolo è quanto di meno equilibrato possa esistere, però bisogna essere anche attrezzati a quei livelli senza raccontare favole. Non so se questa Juventus possa esserlo sul serio a livello europeo, almeno non quest'anno. Diego, ti ringrazio, ci sentiamo presto anche con Facebook e Twitter, tanto qui non siamo mica al Villaggio Olimpico, eh? Esattamente, infatti uno dei vantaggi di non essere olimpici è poter usare Twitter, poter scrivere dei ragazzi che sono là e di quello che succede nel mondo. Bocca al lupo, abbraccio. A presto, grazie ragazzi, ciao. Grazie ciao. Diego Gonfalonieri, bronzo a Pechino nella scherma squadre, lo ricordo, nella spada a squadre. Alla signora Irene da Ravenna. Buonasera. Buongiorno, dica. Dunque, io telefono per quale sport vorrei che fosse rappresentato alle Olimpiadi. Sì, io sto ricevendo di tutto, come proposte, compreso il Bunga classico. Bunga e un 2-3 stella da ascoltatori burloni. Io, dunque, lo sci nautico che non è rappresentato e penso che sarebbe ora che fosse rappresentato. Abbiamo dei campioni italiani a livello internazionale, mondiale, e però non possono fare le Olimpiadi, questo mi sembra... Ne abbiamo uno anche a Ravenna, comunque. Sì, in genere comunque gli sport motoristici, c'era qualche ascoltatore che sottolineava come Formula 1 e motociclismo non sono ad esempio rappresentati alle Olimpiadi. No, infatti il secondo sport che vorrei che fosse rappresentato, perché lo pratico anch'io, sì, è il volo acrobatico. Il volo acrobatico? Facciamo gli europei, facciamo però i mondiali. Io posso dire una cosa, signora Irene, per avere piena dignità di sport, per divertirsi, per avere dei campioni, per avere dei praticanti, non è per forza di cose necessario essere rappresentati alle Olimpiadi, eh? Cioè non è una diminuzio questa, no, però quindi le ci Olimpiadi sono importanti e non capisco perché questi sport non possono essere, perché hanno un motore, ho capito, però comunque l'abilità è sempre di chi lo porta questo motore. Certamente. Lo sci nautico, sì, c'è un traino motore, però i sono atleti veri, lo fa l'atleta, le figure lo fanno l'atleta, ecco. Sicuro. Però torno a ripetere, nulla toglie all'importanza, alla dignità e alla bellezza di questi sport il fatto che non vengano rappresentati alle Olimpiadi. Irene, grazie, torni a trovarci magari in tempo olimpico, che suppongo che nonostante la mancata rappresentanza di questi sport lei seguirà. Antonella da Pescara. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Grazie dell'occasione. Grazie. Volevo parlare di una passione che ormai porto avanti da tanti anni e che è qualcosa che sicuramente ha più a che fare con il corpo, con la fatica fisica in un certo senso, e anche un aspetto mentale molto spiccato, ed sì, è l'apnea. Sì. La prima sport che si fa prettamente in acqua, come sappiamo, e ci sono diverse discipline che vengono svolte anche a livello sportivo, agonistico, sia in Italia che nel mondo. Tra l'altro abbiamo una bravissima nostra campionessa mondiale che è l'Aria Bonin, che e di recente ha... E abbiamo lunghe tradizioni, no, Antonella? Sì, lunghe tradizioni, esatto. Proprio sabato scorso avete trasmesso di nuovo nella trasmissione dei siti incrociati il contest che c'è stato per tanti anni fra Pellizzari e Pipin, sì, insomma due grandi dell'apnea, soprattutto il nostro Umberto Pellizzari che ha dato una grande svolta all'apnea moderna basandosi sugli insegnamenti di Mayol. Ma tornando alla parte proprio sportiva dell'attività, oltre al fatto di essere uno sport che si fa in acqua, che può essere seguito sia in piscina, quindi facilmente, come dire, anche spettacolare sotto tanti punti di vista, anche in acqua, in mare intendo, perché ovviamente ci sono le discipline di profondità, certo, veramente noi come Italia potremmo essere benissimo rappresentati, ecco, quindi caldeggio ancora di più la possibilità che ci sia prima o poi questa apnea fantastica alle Olimpiadi, perché potrebbe essere anche per gli spettatori semplicemente spettacolare. Io sinceramente non lo so se ci siano delle aperture del CIO nei confronti di questi sport, sinceramente non lo so. So che ad esempio il rugby molti vorrebbero vederlo rappresentato alle Olimpiadi, ma non ci sono i tempi tecnici nell'arco di 2 settimane per un torneo di rugby. Si è parlato del rugby a 7, che però non è la stessa cosa. insomma, ci sono vari tentativi e ci sono varie opzioni. Non so a che punto stia la candidatura dell'apnea, così come non so a che punto sia la candidatura, ad esempio, del kitesurf, come suggerisce un altro ascoltatore. Massimo Modena, buonasera, buongiorno. Massimo? Buongiorno, grazie comunque per l'opportunità che mi dà per esprimere un mio pensiero. Sono un tifoso del Milan. Sì? C'è un pensiero che mi rode da un sacco di tempo. Mi chiedo come mai nel Milan posso giocare Antonini e Abate, ma non solo nel Milan, ma anche in Serie A. Questo è un pensiero. L'ascolto per radio, grazie mille. Ma perché ha questo pensiero? Mi sembra che Abate anche agli europei abbia dimostrato di essere un giocatore che ci sta ampiamente, nel Milan ma anche in nazionale. Non capisco questa avversione. Questo è vero, ha fatto 2-3 buone partite agli europei, però non resta il fatto che nel Milan l'anno scorso l'ho seguito, ha fatto degli errori veramente madonnali. Mi dica sulla fascia destra lei chi vede meglio. Prego? Chi c'è di più forte? Basta, dalla prima categoria in avanti, secondo me, guardi, questa è una risposta troppo generica. In Serie A e nel Milan veramente mi angoscia. Questo è un mio pensiero. No, poi va bene, ma il suo pensiero è, insomma, ha tutto il diritto di averlo. Io non lo condivido, ma tant'è. Antonini è un buon giocatore, Abate è un ottimo giocatore che ha dimostrato di poter stare con pieno diritto di cittadinanza anche in nazionale, tant'è vero che io ricordo come cambiò la partita con l'Inghilterra nel secondo tempo quando gli fu dato campo. Non ci sono molti giocatori in quel ruolo in grado di crossare in corsa come sa fare Beniamino Abate, e questo è un retaggio del suo passato da esterno di centrocampo. Difensivamente può crescere ancora, è piuttosto giovane, è relativamente giovane, almeno per gli standard italiani, dunque mi sembra un giocatore che specialmente nel Milan di oggi ammette poche discussioni, ecco. A me piace Abate, a lei no, ognuno si tenga il suo pensiero. A proposito di sport che entreranno nelle Olimpiadi, di cui abbiamo parlato prima, golf e rugby a 7 appunto saranno in Brasile 2016, questo è già stato deciso dal CIO. E vedremo se altri sport verranno lì inseriti. Intanto io ne approfitto per ricordarvi che A Tempo di Sport sarà in diretta con voi tutta l'estate per seguire proprio le Olimpiadi tutta la settimana, 7 giorni su 7. Nel weekend ci sarà Claudio Arrigoni, dal lunedì al venerdì il sottoscritto, e ogni giorno dalle 14 alle 15 con Dario Ricci, il nostro inviato, parleremo di Olimpiadi. Come stiamo parlando ogni giorno di Tour de France, anche se oggi non succede un tubo, giorno di riposo. Pier Augusto Stagi, ciao. No, non c'è Pier Augusto Stagi, è cascato. Niente, vediamo se riusciamo a recuperare la linea. Comunque non, oggi giorno di riposo al Tour de France, e poi arriveranno due giorni di grandi montagne e infine una cronometro che secondo me incoronerà senza troppi dubbi Wiggins, che è il vero padrone di questo tour, che io trovo in realtà molto noioso. Dato che non riusciamo a prendere la linea con la Francia, o riusciamo a prendere la linea con la Francia, allora Pier Augusto Stagi c'è? Sì, ci sono. Ci sei? Sono qui, Carlo. Succede un tubo oggi, non è che ieri sia successo un granché, con la vittoria di Federico. Magari domani. Sì, domani butteremo giù qualche, non so, qualche puntino, metteremo qualche macchina. No, dai, non dire così che poi ci credono. Ci manca solo questo. No, diciamo che domani e dopo saranno gli ultimi fuochi d'artificio per chi appunto vuole crederci ancora, credo siano in pochi. Guarda, di sicuro, intanto Evans, io conto molto su Evans, non perché non mi fidi di Vincenzo Nibali, anzi sono certo che lui si accoderà e cercherà di ribaltare la situazione, ma Evans ha tutto l'interesse a muoversi, a far muovere la sua squadra, un po' perché il loro giro è assolutamente anonimo, un po' perché è quarto e quindi anche giù dal podio per un vincitore del Tour de France sarebbe un risultato estremamente negativo, devi mitigare la situazione. E conoscendo l'australiano, è uno che non molla mai e che ha grande coraggio, è un guerrigliero e quindi non si arrenderà senza combattere, insomma. Esatto, e Vincenzo dovrà essere bravo, lesto e attento a sfruttare questa occasione, dovrà prendere il treno Evans, se sarà buono, sperando che non deragli Evans, perché non ha dato dimostrazione. No, a questo punto si rischia, perché a questo punto il tour è saldamente nelle mani di Wiggins, si tratta di strappargliele, per farlo ci vuole un'impresa ai limiti del possibile. Domani lo scopriamo e lo raccontiamo insieme. Io ringrazio Pier Augusto Stagi, così come Emilio da Parma, che non riusciamo a far parlare perché è scaduto il tempo. Ne avremo un'ora domani, quindi Emilio da Parma, se domani vorrà intervenire, sarà il primo tra i nostri ospiti. Grazie Franco Piattanida per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Ciao a tutti.